Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera parliamo di un sistema innovativo di gestione delle biblioteche universitarie, messo a punto da una società, Top RFID, che sta mettendo ordine negli scaffali della biblioteca dell'Università della Sapienza, dove con questo sistema sono già stati catalogati 60.000 libri, che ora sono più facili da prestare, da inventariare e sono anche però più difficili da rubare. Di tutto questo ci parla la nostra Chiara Albicocco, che per Smart City ha intervistato l'amministratore di Top RFID, Maurizio Vella. Ascoltiamo. Dunque, la tecnologia consiste in un transponder, dispositivo in radiofrequenza, che viene applicato all'interno del libro in maniera pochissimo invasiva, nel senso che è anche difficile riscontrarlo, e consente di registrare all'interno di questo transponder, di questo microchip, informazioni relative al libro. Ecco, allora, per così convenzione possiamo chiamarlo microchip. È praticamente non invasivo perché è molto sottile e si può addirittura, diciamo, appiccicare come se fosse un adesivo all'interno del libro, quindi anche l'estetica, diciamo, non ne risente. Esattamente, abbiamo realizzato, e questa è la peculiarità del nostro prodotto, perché è sottilissimo, è piccolissimo dal punto di vista anche dello spessore, quindi viene incollato come una semplice etichetta tra le pieghe del libro, quindi tra le pagine, anche in una posizione dove che non interferisce con le parole scritte, e ha la capacità di essere letto a una grande distanza attraverso i dispositivi portatili o fissi, e questa è anche l'altra peculiarità. Oltre alla parte estetica, c'è anche una parte performante. Funziona un po', non so se lo vogliamo dire in termini semplici, come i tesserini dei mezzi pubblici, i badge aziendali che aprono i tornelli, oppure gli ski pass sulle piste da sci. Cioè basta avvicinarli, ecco, avvicinare la borsa, avvicinare la giacca allo strumento che lo legge, all'antenna. Ecco, la tecnologia è quella, è esattamente la stessa madre, poi questa madre ha dei figli che sono le frequenze di utilizzo. Certo. In quel caso, nel caso della metropolitana, nel caso dello ski pass e degli accessi, è una frequenza più bassa che consente determinate possibilità dal punto di vista di software, ma ha un limite in termini di distanza di lettura. La tecnologia che usiamo noi, che è l'UHF, in realtà ha le stesse caratteristiche in termini di gestione e di memorizzazione, ma consente distanze estremamente più lunghe perché utilizza la frequenza in maniera diversa. Ecco, è proprio questo, diciamo, l'importanza, il punto di forza di questo transponder. Perché come aiuta, come dire, il bibliotecario e gli utenti della biblioteca? In prima istanza il libro viene identificato, quindi vengono associate le caratteristiche del libro con il transponder, col microchip, quindi vengono registrate le informazioni al suo interno. Questo consente di identificare un libro in mezzo a centinaia di libri. La stessa funzione può essere utilizzata, come viene utilizzata in questa sperimentazione della Sapienza, per l'autoprestito, ovvero un punto di prelievo del libro automatico, senza necessità di un addetto che faccia l'operazione, consente allo studente di registrare il suo tesserino, di registrare il libro e creare l'autoprestito. Un po' come le casse automatiche dei supermercati, un po' fai da te. Esattamente. La funzione poi successiva del transponder, che è molto molto rilevante, è quella dell'inventario. Certo. Il fatto di poter identificare uno scaffale di libri in qualche minuto, probabilmente 2-3 minuti, e con esattezza sapere tutti i libri che ci sono in quello scaffale, questo in uno scaffale di 4 metri quadri può essere fatto in 4 minuti. Ecco, poi senza doverli tirar giù uno per uno, come insomma si facevano gli inventari un tempo, e certamente le biblioteche universitarie possiamo immaginare contengano appunto migliaia di volumi, quindi insomma un bel tempo risparmiato sicuramente. Questo è uno dei vantaggi. E poi ci sono funzionalità che possono essere ad esempio una maggior sicurezza, cioè una protezione dallo scippo, da chi magari vuole sottrarre in maniera ingiustificata un volume particolarmente prezioso. Direi che c'è anche questa funzione, che in termini tecnici si chiama EAS, è un sistema di sorveglianza all'interno del microchip, che consente di memorizzare una posizione sul chip se quel libro è autorizzato a uscire o meno. Diversamente, se per qualche motivo il libro non è autorizzato a uscire, e viene rilevato dal sistema del gate, suona tutto. Può suonare tutto, può mandare degli allarmi, può addirittura segnalare che la persona che si è registrata non ha registrato il libro. Ecco, e queste diciamo che sono un po' le funzioni base. Poi ci sono anche le funzioni optional, cioè ad esempio ci può essere la possibilità di inviare un SMS allo studente, all'utente, per riportare il libro perché è in scadenza. Certo, ecco, questo è una delle funzioni automatiche. Nel momento in cui l'autoprestito si realizza, il software provvede a gestire sia il tempo il giorno in cui il libro è stato preso in prestito e i giorni che lo studente ha a disposizione per restituirlo. Di conseguenza, memorizzando questi dati, è in grado automaticamente di inviare un SMS allo studente avvisandolo che sta scadendo il termine di prestito. E in termini di costi come siamo messi? Questo tipo di sistema va a incidere molto nelle casse dell'università? No, ecco, allora il costo è veramente minimo, perché si tratta di un'infrastruttura RFID. Il singolo tag costa sempre meno più se ne fanno in quantità. È vero che per esempio nelle sperimentazioni singole, quindi che prevedono una quantità limitata di tag, di transponder, il costo può essere, diciamo, tra virgolette sensibile. Parliamo di qualche centesimo di euro. E ad esempio per quanto riguarda l'università La Sapienza, insomma, lì i volumi sono tanti, quindi il costo si riduce. La Sapienza, che potrebbe farli nel suo, diciamo, nella sua interezza di somma di biblioteche, in realtà va avanti per piccoli passi. Di conseguenza i 50.000 pezzi, 60.000 pezzi che le ho accennato sono veramente ancora pochi. Ok, quindi hanno ancora un costo, come diceva lei, di qualche centesimo, che si potrebbe potenzialmente abbassare. Sicuramente si potrebbe abbassare con la quantità. Ci dobbiamo fermare qui, ci risentiamo domani, buona serata.